Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Ci siamo già occupati più volte in passato di energia geotermica. Parliamo in particolare della produzione di energia elettrica a partire dal calore della terra, che richiede quindi profonde perforazioni dai 500 metri di profondità in giù fino anche ad alcuni chilometri di profondità. Come abbiamo sottolineato, l'Italia è particolarmente ricca di questa risorsa per via proprio della sua conformazione geologica. Stasera allora cerchiamo di completare il quadro del settore geotermico con i principali aspetti normativi e autorizzativi. Ci facciamo aiutare in ciò da Sergio Chiacchella, direttore del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche, che ha sede a Radicondi in provincia di Siena. Buonasera Chiacchella. Buonasera. Allora, intanto direi partiamo mettendo un primo paletto. Le chiedo, l'energia geotermica gode di qualche forma di incentivazione? Beh, l'energia geotermica è a tutti gli effetti considerata un'energia rinnovabile e quindi gode dei benefici riservati alle rinnovabili in genere, quindi certificati verdi relativi alla produzione di energia elettrica, certificati bianchi per l'efficienza energetica e quindi per l'uso del calore. Quindi diciamo che per esempio nel momento in cui si fa una centrale geotermica che produce energia elettrica ma fa anche cogenerazione, si prendono tutte e due? Sì, in questo caso i due incentivi possono coesistere. Certo, d'accordo. Ecco, qual è allora l'iter autorizzativo tipico di un impianto geotermico? Ma dunque, anche per questi aspetti la geotermia è abbastanza particolare, in quanto, come diceva lei nell'introduzione, noi abbiamo una risorsa nel sottosuolo di cui non conosciamo le caratteristiche né la quantità. Per cui il primo passo è individuare la risorsa. In questo senso la normativa ha fatto recentemente dei passi avanti sostanziali, infatti con la legge 99 del 2009, successivamente poi integrata dal decreto legge 22 del febbraio di quest'anno, sono stati stabiliti dei termini ben precisi che intanto caratterizzano il tipo di risorsa. Quindi noi abbiamo sopra i 150 gradi, possiamo parlare di alta entalpia, sì. Fra i 90 e i 150 gradi di media entalpia, sotto i 90 gradi abbiamo la bassa entalpia. Certo. Oltre a questo abbiamo una risorsa di interesse nazionale sopra i 20 megawatt termici utilizzabili, una risorsa di interesse locale sotto questo parametro, sì. E piccole utilizzazioni locali sotto i 2 megawatt termici e con perforazioni più superficiali di 400 metri, sì. Per quest'ultima fattispecie non si applica la legge sull'energia ma quella sulle acque, quindi ci rifacciamo al regio decreto del 29. Quindi in funzione delle caratteristiche si ha un processo autorizzativo che varia. Comunque la normativa di riferimento cos'è? L'autorizzazione unica? La normativa di riferimento è l'autorizzazione unica. Autorizzazione unica e in certi casi è subordinata ovviamente alla valutazione di impatto ambientale. Per quanto invece riguarda, diciamo, la prima fase di ricerca della risorsa geotermica. Questa appunto è un'altra caratteristica particolare della geotermia che, come dicevo, è sconosciuta nella sua entità, per cui il soggetto che intende realizzare un impianto deve prima chiedere un permesso per la ricerca, sì. Che dura 4 anni e rinnovabile per ulteriori 2, fase nella quale vengono fatte delle indagini sia superficiali, geologiche, geognostiche, di tipo diverso, fino alla perforazione di pozzi di ricerca con i quali si individua cosa c'è nel sottosuolo, qual è il bacino, quali sono le caratteristiche. Ecco, per avere diritto a svolgere questa attività bisogna chiedere un permesso di ricerca, giusto? Un permesso in regione. Secondo la nuova normativa è di competenza regionale, salvo per bacini marini per i quali è competente ancora il Ministero dell'Industria congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente. Tra l'altro, mi pare che per quanto riguarda il geotermico siano previste dalla normativa nazionale delle misure di compensazione per le popolazioni, diciamo, che ospitano l'impianto. La geotermia, proprio per la sua, come dire, invasività sul territorio, prevede delle compensazioni ambientali che vanno a favore della regione sede di impianto e dei comuni sede di impianto. Sono incentivi abbastanza interessanti che possono servire per promuovere iniziative di sviluppo socio-economico, di riassetto ambientale, cioè in qualche modo da compensare appunto la presenza delle centrali, dei vapordotti, dei pozzi di ricerca e di coltivazione. Ecco, a proposito di impatto, si registrano purtroppo in passato alcune esperienze, per esempio a Latera, da cui è emerso che un impianto geotermico può causare emissioni inquinanti anche abbastanza significative se non si attua un ciclo chiuso, cioè se non si reinietta nel terreno il fluido profondo che è stato prelevato, oppure se non si praticano misure adeguate di abbattimento delle emissioni. Che cosa dice la legge in proposito? Ma dunque, non esiste una normativa nazionale che regolamenti e limiti le emissioni in atmosfera. Questa cosa è stata più volte sollecitata dalla Regione Toscana, che autonomamente si è dotata di una propria regolamentazione, imponendo l'estensione a tutti gli impianti degli abbattitori AMIS, che abbattono mercurio e idrogeno solforato, imponendo oltre a questo anche l'applicazione delle migliori tecnologie per quanto riguarda l'acido borico e l'ammoniaca, che sono gli altri due inquinanti che spesso sono del vapore geotermico. Grazie Chiacchella. Prego, arrivederci, buona serata. Bene, siamo in chiusura, l'appuntamento è per domani alla stessa ora. Parleremo dei programmi europei per sostenere l'efficienza energetica. Buona serata.